Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Due suore italiane sono state rapite al confine tra Kenya e Somalia, la conferma poco fa dalla Farnesina. Trasporti difficili nel giorno dello stop di treni e mezzi pubblici, il fronte del no all'accordo per l'Italia crea disagi a Fiumicino. Ancora giù la produzione industriale, il calo è il peggiore da 10 anni a questa parte. Il piano cinese spinge le borse contro la crisi, Pechino investirà il 16% del PIL e tutte le piazze finanziarie sono in rialzo. Aspettando Barack, primo incontro questa sera tra Obama e Bush, il neoeletto presidente fa sapere 200 leggi da cancellare. Morte in concerto, Miriam Makeba se ne va dopo l'esibizione per Saviano a Castelvolturno. Mandela è quello che avrebbe voluto. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large che apriamo andando in Africa. Andiamo in Africa, precisamente in Kenya, nel nord del Kenya, perché nella città di Elvak due suore cattoliche italiane sono state rapite. Si tratta di una zona al confine con la Somalia. La notizia è stata confermata poco fa anche dalla Farnesina. Come sempre, in questi casi le notizie sono ancora confuse e frammentarie. Sembra però che un gruppo di uomini armati, probabilmente somali, abbia prelevato le donne dalla loro abitazione. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, grande conoscitore della realtà africana, che idea ti puoi fare di questo sequestro? Innanzitutto sono cose consuete in un paese come il Kenya, che magari siamo abituati a conoscere per ragioni turistiche? Beh, non del tutto consuete su scala nazionale keniana, ma in quell'area certamente l'instabilità è forte, perché innanzitutto il 60-70% della popolazione del nord del Kenya è di origine somala e in più dopo il fallimento dello Stato somalo negli anni 90 ci sono migliaia e migliaia di profughi che arrivano dalla Somalia, non solo, ma in Kenya avevano trovato rifugio dopo la caduta del regime delle corti islamiche somalo e l'ingresso delle truppe etiopi a Mogadiscio, parte di quelle bande islamiche che avevano appunto fuggito l'invasione etiope e anche la caccia data loro dagli americani proprio in territorio kenyota. Quindi è piuttosto probabile, ecco, che Alberto, siano stati bande somale. Ecco, bande somale, perché avrebbero rapito due suore, due italiane? Cosa conta in questo rapimento da un punto di vista formale? Beh, la cosa è abbastanza complicata. Facendola semplice si può dire soltanto che chiaramente sono dei bersagli facili, purtroppo. Sono bersagli facili perché si tratta di persone che magari lavorano sul territorio da molto tempo e quindi sono facilmente individuabili e conosciute da tutti. Purtroppo ricordiamo anche episodi del recente passato molto dolorosi da questo punto di vista, cioè di operatori umanitari e anche religiosi che sono stati uccisi o rapiti proprio perché erano facilmente individuabili dalla popolazione. E poi c'è una scala religiosa chiaramente alimentata dall'integralismo islamico e dalle divisioni etnico-religiose di quell'area. Grazie Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Naturalmente vi aggiorneremo non appena avremo notizie. Grazie Alberto, buona giornata. Grazie a voi. Passiamo ora a parlare della giornata di scioperi che sta interessando tutta l'Italia. I treni sono a singhiozzo da ieri sera e l'agitazione del personale ferroviario terminerà solo alle 21. Sono stati comunque garantiti, come previsto per legge, i convogli regionali fra le 6 e le 9 e lo saranno ancora nella fascia 18-21. Ma lo stop, e ve ne sarete accorti girando per le città oggi, riguarda anche i mezzi pubblici con orari diversi da città a città. Iniziamo da Roma. Com'è la situazione, Francesca Maraguti? Qui autobus, tram e metropolitane sono in sciopero dalle 8.30 di questa mattina e continueranno fino alle 17. Poi ci saranno 3 ore di mezzi garantiti e lo sciopero riprenderà dalle 20 a fine servizio. I mezzi in circolazione sono pochissimi in realtà. La società che gestisce le linee ha comunicato che alle 10.30 l'adesione alla protesta era del 73%. Molti disagi nella capitale sono dovuti anche allo sciopero dei treni. Ricordiamo infatti che la mobilitazione a cui aderiscono CGL, CISL, UIL e anche tre sigle autonome è per il rinnovo del contratto sia degli addetti al trasporto locale che di quelli del trasporto ferroviario, contratto scaduto il 31 dicembre 2007. Sentiamo alcune voci raccolte questa mattina da Chiara Di Michele alla stazione Termini. Il treno è arrivato in ritardissima rispetto all'orario e qui pullman non ce ne sono. Quindi cosa farà? A piedi. Io mi sa che seguo a lui perché non so come arrivare al lavoro. Niente, non c'è nulla, quindi non parte più niente ormai. Siamo rimasti bloccati alla stazione. Un taxi è l'unica. I sindacati chiedono un adeguamento del reddito e questo è il terzo sciopero dei trasporti di quest'anno dopo quelli del 9 maggio e del 7 luglio. Da Roma a voi la linea. Grazie Francesca Di Malaguti. Prima di andare a sentire come sta andando lo sciopero anche nelle altre città, ci sono degli aggiornamenti sulle suore rapite questa mattina in Kenya, nella zona nord a confine con la Somalia. Simone. Sì, innanzitutto i nomi si chiamano Maria Teresa Olivero e Caterina Giraudo, sono appunto le due suore missionarie rapite oggi. Stando a quanto ha precisato il nunzio apostolico in Kenya, Monsignor Lebopena Lempol, le due religiose appartengono al centro missionario Charles de Foucault di Cuneo. Andiamo ora a sentire come è andata la mattinata per quanto riguarda lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano. Alcuni turisti restano disorientati davanti alle metropolitane serrate per lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano, che ha visto un'adesione quasi totale. Chi doveva andare al lavoro si è svegliato un'ora prima ed è arrivato un'ora dopo. Sì, sapevo dello sciopero, però siccome devo andare a lavorare ho preso quindi i mezzi per arrivare a lavorare, però ho avuto grossa difficoltà questa mattina. A Cadorna ogni tanto passa un tram, qualche autobus parte da Piazzale Lotto, qualche lavoratore dell'ATM avrebbe preferito un'astensione ancora più drastica. Per me bisogna essere compatti tutti quanti insieme, non uscire dal mattino, perché giustamente lo sciopero bisognerebbe farlo in questo senso, portare le persone a lavorare e poi riportarle a casa. Per me questo tipo di sciopero non ha senso, a lasciare soltanto una persona che per esempio deve andare a fare la spesa, mi lasci soltanto il vecchietto a casa, non ha senso. La protesta, indetta da Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL Trasporti, Orsa, Pfizer e Fast, è legata all'avvertenza per il nuovo contratto nazionale. Alle 15 il trasporto locale riprenderà, per poi interrompersi alle 18 fino a termine del servizio. Cristina Carpinelli, GR24, Sole 24 Ore. Ci spostiamo a Napoli. Enzo Danna, buongiorno, la situazione. Sì, uno sciopero che sta avendo pesanti ripercussioni sulla mobilità cittadina, treni a singhiozzo dalle 21 di ieri sera, dalle 8.30 di questa mattina fermi anche autobus, tram, metropolitane e le tre funicolari. Le corse riprenderanno nella fascia protetta, compresa tra le 17 e le 20, poi nuovo stop fino a fine servizio. Questa mattina si sono visti pochissimi pullman in strada, la gran parte ha fatto subito rientro nei depositi. Secondo l'azienda napoletana di mobilità, l'adesione allo sciopero sfiora il 90%, dunque altissima. Ferme con modalità diverse altre importanti linee ferroviarie, Cumana e Circumflegrea, per esempio, riprenderanno il servizio dalle 14.30 alle 17.20, mentre i treni della Circumvesuviana funzioneranno più o meno regolarmente dalle 13.30 alle 17.30. Ed è tutto da Napoli. Grazie Enzo Danna. Noi ora ricordiamo gli orari dello sciopero anche in alcune altre città. A Torino i mezzi hanno ripreso a circolare, ma si fermeranno nuovamente dalle 15 a fine servizio. A Genova lo stop durerà fino alle 17, poi ancora dalle 21 a fine servizio. A Bologna autobus fermi fino alle 16.30 e poi dalle 19.30 a fine servizio. A Firenze i mezzi hanno ripreso a circolare, ma si fermeranno di nuovo dalle 15.15 a fine servizio. A Bari gli autobus hanno ripreso a circolare da poco, ma si fermeranno di nuovo dalle 15.30 fino a fine servizio. Infine a Palermo mezzi ancora fermi, riprenderanno alle 17.30 per poi tornare nei depositi alle 21.30. Questi dunque gli scioperi di oggi, ma i viaggiatori, almeno quelli che scelgono l'Italia, devono prepararsi ad altri disagi. I sindacati autonomi, che rappresentano la maggior parte dei piloti e degli assistenti di volo, hanno proclamato 14 giorni di sciopero. E oggi sono arrivate anche importanti novità dal cosiddetto fronte del No, che è riunito in assemblea a Fiumicino. Andrea Viali, cos'è successo? Sì, è successo che la situazione qui a Fiumicino è molto confusa in questo momento, non sono mancati anche attimi di tensione in questa assemblea convocata dai sindacati contrari all'accordo con CAI, sindacati di piloti e assistenti di volo che, come ricordavate, hanno già proclamato 14 giorni di sciopero. Una protesta che è stata giudicata però inadeguata da parte di molti lavoratori all'Italia, che hanno deciso di abbandonare stamattina l'assemblea perché chiedono che venga proclamato uno sciopero immediato, e da oltre un'ora stanno bloccando il varco dal quale entrano gli equipaggi di Alitalia. I rappresentanti delle cinque sigle sindacali che fanno parte del cosiddetto fronte del no e che avevano convocato questa assemblea stanno ora cercando di far cambiare idea. Questi lavoratori saranno poco più di un centinaio per far mettere fine a una protesta che è quindi di una minoranza, ma che rischia di avere pesanti ripercussioni oggi sull'operatività dei voli all'Italia, anche se non è escluso che la compagnia decida di far entrare gli equipaggi da altri ingressi, cosa che stanno facendo anche tutte le altre compagnie straniere. Situazione quindi, ripeto, molto confusa qui da Fiumicino, per ora è tutto. Grazie Andrea Viali. E passiamo da una vicenda tipicamente italiana ad una gloria italiana, Alessandra. Sì, una gloria italiana conosciuta in tutto il mondo per le sue colonne sonore. Parliamo di Ennio Morricone, che oggi compie 80 anni. La musica per il cinema è ancora sottovalutata. Prima o poi tutti dovranno attribuirle la giusta attenzione. Molti critici e studiosi pensano che vada chiusa in un ghetto perché è applicata a un'altra forma d'arte, ma questa è semplicemente una condizione storica. Dice così oggi Ennio Morricone, mentre il mondo celebra i suoi 80 anni. «Ho molto da fare», dice il maestro, «e non ho tempo per festeggiare». Non ha, infatti, ancora smesso di comporre colonne sonore. Sono oltre 400 quelle nel suo curriculum, di cui solo 30 quelle celeberrime per film western. Comincia nel 1955 come arrangiatore. Gli incontri che gli cambiano la vita sono quelli con Bernardo Bertolucci e ovviamente Sergio Leone, con cui inizia con Per un pugno di dollari. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Avevi detto così? Vediamo se è vero. Vince il suo primo nastro d'argento nel 1965 grazie alle musiche di Metti una sera a cena e il secondo solamente un anno dopo per Sacco e Vanzetti. La prima nomination per un premio Oscar nel 1979 per la colonna sonora dei Giorni del Cielo, poi un'altra per Mission e ancora per Gli Intoccabili, Bugsy e Malena. L'Oscar arriva solo alla carriera il 25 febbraio 2007. Thank you very much. Voglio ringraziare l'Accademia per questo onore che mi ha fatto dandomi questo ambito premio. Ennio Morricone continua a comporre opere teatrali, sinfonie, musica da camera e le sue colonne sonore. L'ultima è quella di Resolution 819 di Giacomo Battiato, vincitore del Festival di Roma. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Rapite in Kenya due suore italiane, si tratta di Maria Teresa Olivero e Caterina Giraudo, appartengono ad un centro missionario di Cuneo. Il sequestro è avvenuto al confine con la Somalia e somali sarebbero i rapitori. È in corso lo sciopero del trasporto pubblico locale a Roma e Napoli, i mezzi andranno dalle 17 alle 20. A Milano riprenderanno dalle 15 e fino alle 18, fermi invece i treni fino alle 21. A Fiumicino nuova assemblea del fronte del no all'accordo con CAI, proposto il blocco immediato del trasporto aereo e già si registrano disagi a Fiumicino. Nel pomeriggio tutte le sigle di Alitalia convocate dal commissario Fantozzi. In netto calo la produzione industriale, nei primi 9 mesi dell'anno discesa del 5,7%, a settembre meno 2,1% sul mese di agosto, il calo più alto da 10 anni, un vero e proprio crollo per la produzione di auto, meno 26%. La Cina vara un piano anticrisi che vale 586 miliardi di dollari, le borse festeggiano, molto positive le piazze finanziarie asiatiche, bene anche Milano e l'Europa. Morta a 76 anni, Miriam Makeba aveva appena finito di cantare in un concerto in onore di Roberto Saviano a Castelvolturno. È giusto che abbia vissuto gli ultimi momenti sul palcoscenico, ha detto il grande amico di sempre, Nelson Mandela. Ed è la Cina dunque oggi a muovere i mercati, Alessandra. Il Consiglio di Stato ha annunciato un piano economico senza precedenti. Sì, un piano economico senza precedenti. Questa è la cifra, 586 miliardi di dollari. Per fare un esempio, insomma, questa cifra non va paragonata ai 700 miliardi di dollari del piano Paulson, quello elaborato negli Stati Uniti, ma con i 200, quindi una cifra nettamente inferiore, sempre 200 miliardi di dollari, di sostegno alla crescita varati quest'anno da Washington. In qualunque caso, si tratta di una cifra enorme, considerando anche la differenza che c'è fra il tenore di vita in Occidente e quello che questi quasi 600 miliardi di dollari rappresentano per la Cina. Fabrizio Galimberti, economista ed editorialista del Sole 24 Ore. Perché questo passo della Cina? Perché un'economia non di mercato, almeno non completamente di mercato come quella cinese, si deve muovere con queste cifre? Beh, diciamo, ci sono due cose. La prima è il fatto che un po' in tutto il mondo adesso ci si va volgendo verso lo stimolo di bilancio. La politica monetaria ha fatto molto, ha fatto tutto quello che poteva, ma essendo il problema essenzialmente un problema di fiducia, bisogna confortare la voglia di spesa di consumatori ed imprese, e a questo punto ci vuole il supporto del bilancio pubblico. E da questo punto di vista la Cina ha fatto una manovra che si iscrive in questa tendenza che si allarga sempre di più a spostare l'ottica del supporto dalla politica monetaria alla politica di bilancio, e l'ha fatto anche e soprattutto perché l'economia cinese è un po' come una bicicletta, cioè non può fermarsi, se si ferma cade, il tessuto sociale non resisterebbe ad una pausa nella crescita, visti gli enormi spostamenti di masse, di risorse dalla campagna alle città, visto la nuova classe media che vive anni di aspettative crescenti e non tollererebbe un arresto della crescita. Quindi i cinesi giustamente fanno tutto quello che possono per mantenere l'economia su una dirittura di arrivo. Insomma, ricordiamo anche che questi quasi 600 miliardi di dollari verranno utilizzati per fare cose concrete, migliorare per esempio le infrastrutture, insomma migliorare la situazione dell'economia reale cinese affinché aumentino i consumi del mercato interno, quindi degli stessi cinesi. Certo, certo. Non è ancora chiaro fino a che punto questi programmi siano sostitutivi o aggiuntivi rispetto a quelli che erano già previsti prima, se si tratta di accelerare delle cose già in cantiere, però in ogni caso la stazza della misura è grossa e ha giustamente ringalluzzito i mercati finanziari mondiali. Fabrizio, noi siamo abituati ad immaginare la Cina come un colosso produttivo e la cui economia, la cui potenza economica si basa sulla produzione e non sui consumi. Come mai il governo cinese decide di intervenire in questo modo con il chiaro obiettivo proprio di rilanciare i consumi? Sta cambiando anche l'economia cinese? Ma diciamo che era un po' un mito quello che vedeva la Cina come un'immensa macchina esportatrice e basta. L'economia cinese è andata crescendo a tassi del 10% e passa da molti anni, e a questo 10% contribuivano sì le esportazioni, ma contribuiva anche la domanda interna, contribuivano i consumi, contribuivano molto gli investimenti. Quindi basta visitare la Cina e guardare queste città avveniristiche che stanno sorgendo dal nulla, non solo a Shanghai, per rendersi conto che c'è un forte rigonfiamento della domanda interna. E da questo punto di vista penso che tutto questo abbia creato presso la popolazione una voglia di star meglio, una voglia di migliorare, che sarebbe molto pericoloso disattendere, e per questo la dirigenza cinese è in pratica obbligata a fare di tutto perché la bicicletta non si arresti. Grazie Fabrizio Galimberti, economista ed editorialista del Sole 24 Ore, per averci aiutato a capire un po' meglio le conseguenze anche di questo piano cinese, conseguenze che si sono avute già all'alba di questa mattina sui mercati asiatici, che poi stanno continuando ora sulle piazze europee. Simone? Sì, Tokyo ha chiuso con un rialzo del 5,8%, in questo momento tutte le borse europee vanno bene, a quanto pare proprio sulla scorta anche di questo piano cinese. A Milano l'S&P MIB guadagna il 3,24%, il MIBTEL quasi 3 punti percentuali, Francoforte altrettanto, Parigi il 3,29%. Arrivano intanto altri particolari sul rapimento delle suore italiane avvenuto nel nord del Kenya al confine con la Somalia. Poco fa la Croce Rossa keniota ha fatto sapere che il sequestro è avvenuto all'1 di notte di domenica 9 novembre, dunque ora locale, la scorsa notte, e hanno confermato di fatto che c'è stato un attacco da parte di un gruppo di uomini nel residence dove le due suore alloggiavano. Una notizia di cronaca: sono stati revocati gli arresti domiciliari per il cardiochirurgo Carlo Marcelletti. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Palermo. Il medico è accusato di concussione, truffa, abuso d'ufficio e produzione di materiale pedopornografico. Il collegio ha imposto al medico l'obbligo di firma per 3 volte alla settimana alla polizia giudiziaria in qualunque città risieda, ossia domiciliato. È giusto che gli ultimi momenti di vita di Miriam Makeba siano passati sul palcoscenico. Lo ha detto oggi l'ex presidente sudafricano Nelson Mandela, commemorando la grande cantante morta la notte scorsa, 76 anni, alla fine di un concerto contro la camorra a Castelvolturno. Aveva appena cantato a sostegno dello scrittore Roberto Saviano. Ma chi era Miriam Makeba? Sentiamo. La chiamavano tutti Mama Africa. Miriam Zenzi Makeba era nata il 4 marzo del 1932 a Johannesburg, in Sudafrica, e la sua fama era legata non solo alla sua carriera di cantante dotata di una voce straordinaria, ma soprattutto al suo impegno politico contro l'apartheid e al suo ruolo di delegato alle Nazioni Unite. A cantare a livello professionale aveva cominciato negli anni 50 con il gruppo dei Manhattan Brothers, poi la decisione di fondare una propria band, The Skylarks, che univa jazz e musica tradizionale sudafricana. Il lavoro l'ha portata a lungo in America e in Europa, ma l'allontanamento dal Sudafrica divenne definitivo quando, agli inizi degli anni 60, proprio a causa del suo impegno contro le discriminazioni razziali, il suo paese decise di bandire i suoi dischi e condannarla all'esilio. Solo nel 90 Nelson Mandela convinse la Makeba a tornare in Sudafrica. Vincitrice di vari premi per la pace, nel 2005 ha fatto un tour mondiale di addio alle scene, portando le sue canzoni in tutti i paesi che aveva visitato durante la sua lunga carriera. Con una di queste, Pata Pata, la più famosa, Miriam Makeba si è congedata per sempre da tutti noi. Adriana Fracchi, GR24, Il Sole 24 Ore. E l'avete sentito, Miriam Makeba aveva appena terminato di cantare in un concerto dedicato a Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, e ci sono novità a proposito del film che è stato tratto dal romanzo di Saviano. Eh sì, perché inizia oggi la campagna per lanciarlo verso la candidatura all'Oscar come migliore film straniero. Stasera, prima di gala a Los Angeles, nell'ambito della rassegna New Films from Italy. Ad accompagnare la pellicola tratta dal romanzo appunto di Saviano ci sarà, oltre al regista Matteo Garrone, il produttore della Fandango Domenico Procacci. L'ha intervistato Paolo Panceri. Io non sono una persona scaramantica, quindi non le sto a dire difficile, difficilissimo, è scaramanzia. È oggettivamente un gran bel traguardo ed è un fatto che ci siano 67 film, ognuno considerato il migliore di quest'anno nel proprio paese, quindi la concorrenza è molto forte. Personalmente io penso di sì, penso che abbiamo delle possibilità. Penso che il film stia avendo molti riconoscimenti e molta attenzione, anche a prescindere da quello che succede intorno a Roberto Saviano. E quindi sì, penso che qualche possibilità l'abbiamo. In realtà il lavoro è già iniziato da un po', perché c'è già stata una proiezione per i membri dell'Academy che votano per il miglior film straniero. Io andrò a Los Angeles, dove lavoreremo soprattutto sul Golden Globe, sulla possibilità di avere una candidatura per i Golden Globes. Quindi insomma è un lavoro che è già partito e vediamo il 22 gennaio se ci porta a essere nella cinquina. Il distributore americano di Gomorra sta in questi giorni verificando l'ipotesi di poter anticipare l'uscita del film nelle sale statunitensi a metà dicembre invece che, come previsto, a gennaio. Guardi, è quello che sto cercando di fare e sto spingendo in quella direzione già da un bel po'. Un incontro finale lo avrò con i distributori americani e lì prenderemo una decisione definitiva. È lì che sto cercando di arrivare, perché penso che comunque, avendo il film un profilo così alto, anche se è un tentativo, quello veramente, veramente estremamente difficile, però penso che valga la pena perlomeno provarci. Quindi insomma, nell'arco dei prossimi giorni lo saprò con certezza. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Rapita in Kenya due suore italiane, si tratta di Maria Teresa Olivero e Caterina Giraudo, appartengono ad un centro missionario di Cuneo. Il sequestro è avvenuto al confine con la Somalia e somali sarebbero i rapitori. È in corso lo sciopero del trasporto pubblico locale. A Roma e Napoli i mezzi andranno dalle 17 alle 20, a Milano dalle 15 alle 18, fermi i treni fino alle 21. A Fiumicino nuova assemblea del fronte del no all'accordo con CAI, proposto il blocco immediato del trasporto aereo e già si registrano disagi a Fiumicino. Nel pomeriggio tutte le sigle di l'Italia convocate dal commissario Fantozzi. In netto calo la produzione industriale, nei primi 9 mesi dell'anno discesa del 5,7%, a settembre meno 2,1% su agosto. La Cina vara un piano anticrisi che vale il 16% del prodotto interno lordo e le borse festeggiano, positive le piazze asiatiche, bene anche Milano e l'Europa. Morta a 76 anni Miriam Makeba, aveva appena finito di cantare ad un concerto in onore di Roberto Saviano a Castelvolturno. Già lo sentivate nei titoli, i dati sulla produzione industriale non sono buoni, vanno male in particolare le auto. Il calo complessivo è del 2,1% in un mese, il peggiore da 10 anni. Per quanto riguarda il raffronto con settembre dell'anno scorso, l'indice corretto per giorni lavorativi ha registrato un calo tendenziale del 5,7%. Per quanto riguarda i singoli settori, il calo, lo accennavamo prima, della produzione di autoveicoli in un anno è stato il peggiore, un calo del 26%. Ma non è tutto attribuibile a questo. Abbiamo sentito poco fa Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria. Non è solo il settore automobilistico, tant'è vero che i beni non durevoli, la produzione di beni non durevoli è scesa del 3-5%, quindi molto di più di quella dei beni durevoli, parlo di variazioni mensili. E scendono molto anche le produzioni di beni di investimento, meno 2,5%. È una previsione attesa questa caduta forte verticale in settembre, forse a ottobre ci sarà una mini stabilizzazione, anche se però poi a ottobre abbiamo avuto una veramente forte contrazione di tutti gli ordini e quindi ci aspettiamo ancora dati negativi per novembre e dicembre. È l'esplicarsi di quella recessione della quale voi parlavate? Sì, anche se si sta manifestando in un modo ancora più forte di quel che si pensava, e questo perché sulle cause tra virgolette normali della recessione, cioè il rialzo dei prezzi delle materie prime, la rivalutazione del dollaro, la crisi immobiliare, cause che sono state diciamo forti in passato e che hanno effetti ritardati, si è innescata la crisi finanziaria, la crisi bancaria con il fallimento di Lehman e tutto quello che ne è seguito. E lo sentivamo quindi anche dalle parole di Luca Paolazzi, un calo consistente, anche se non è colpa solo di quello, per quanto riguarda le auto. E noi siamo andati a vedere che cosa sta succedendo un po' nel punto nevralgico della produzione dell'auto in Italia, Torino e il resto del Piemonte. Sì, ma per un altro tema, ossia il fatto che come ben più di qualche anno fa si sono rivisti gli studenti davanti ai cancelli delle fabbriche, si sta ricreando insomma una sorta di connubio, ma la situazione è molto diversa rispetto al passato. Sentiamo. A Torino gli studenti sono tornati dopo 30 anni a volantinare a Mirafiori, ma il fatto, 30 anni dopo, non ha lo stesso colore o significato. Sotto la mole la crisi è esplosa con una virulenza impressionante. Nel 2007 le richieste di cassa integrazione a settembre-ottobre avevano interessato 1.932 lavoratori. Quest'anno, nello stesso periodo, sono decuplicate e toccano 19.291 addetti. Perché a Torino l'effetto è stato così forte e immediato? Giorgia Airaudo, segretario della FIOM. Da Torino si vede prima perché abbiamo ancora una grande concentrazione manifatturiera e vi è la grossa presenza di un prodotto che è l'autoveicolo, non solo l'automobile ma anche il veicolo industriale, che ha immediatamente reagito alla crisi e al calo dei consumi. Nel 2002 era in crisi la Fiat, ma solo l'automobile della Fiat, e gli altri produttori che fornivamo da Torino, cioè i francesi della Peugeot, della Renault, i tedeschi di Volkswagen e Mercedes, compensavano. Oggi sono fermi. Per Giuseppe Gerzi, direttore dell'Unione Industriale, è difficile fare previsioni sui tempi. Oggi credo che siamo certi delle conseguenze sui consumi e sull'economia reale. Quanto sia profonda la crisi e quanto sia soprattutto lunga la crisi è tutto ancora da vedere, tutto da verificare. La congiuntura negativa tocca grandi e piccoli. A Bertone, Pininfarina o Michelin, in crisi da tempo, si sono aggiunte Seat, Daico e tante microimprese, mentre Fiat ha raddoppiato gli operai in cassa. La chiusura che pesa di più, però, è quella del centro ricerche Motorola, uno dei simboli della nuova Torino, che ha scommesso sul trinomio manifattura, servizi, ricerca. Il rettore del Politecnico, Francesco Profumo, ha annunciato l'arrivo del colosso Oracle, ma si è detto preoccupato, perché a Torino senza ricerca non ci può essere futuro. Ed è forse questo l'obiettivo che può unire lavoratori, studenti e imprese, come dice Francesco Pescarmona, ricercatore del Poli impegnato contro i tagli all'università. L'università in generale, Politecnica in particolare, ha una collaborazione molto stretta con il tessuto produttivo regionale e nazionale, per cui anche i tagli che forti che si sono previsti per i prossimi anni al Politecnico, come a tutte le altre università italiane, andranno fortemente a incidere sulla qualità del lavoro del Politecnico e non solo sulla didattica ma anche sulla ricerca, quindi quell'attività che sono di supporto alle aziende. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo a una nuova puntata del nostro viaggio fra le regioni dove sono terminati i fondi per le strutture sanitarie private convenzionate. Regioni dunque nelle quali i cittadini sono costretti a pagare per intero le prestazioni, per esempio analisi del sangue, radiografie, oppure naturalmente possono rivolgersi al pubblico, spesso però con lunghe liste d'attesa. Abbiamo già sentito del caso di Campania, Sicilia, Puglia, Umbria e Calabria. Oggi andiamo nel Lazio. Vittorio Cavaceppi è il presidente regionale di Anisap Lazio, che coordina circa 300 strutture sanitarie ambulatoriali accreditate nella regione. Lo ascoltiamo al microfono di Roberta Pellegatta. Nella regione Lazio sono 10 anni che si va avanti in questa maniera. Dal mese di ottobre noi già cominciamo ad avere segnalazioni dalle nostre strutture associate che hanno terminato il budget. Ma quindi cosa occorrerebbe? Una maggior flessibilità per quanto riguarda i fondi e non queste rigidità? Esatto, una maggiore flessibilità verrebbe fuori di assegnare il budget alla struttura, ma di aggiungere un sistema di regressione tariffaria per cui questo nell'ultima parte dell'anno può continuare ad assistere sapendo che quella tariffa che lui prendeva nelle prime parti dell'anno gli viene proporzionalmente diminuita, ma che lui riesce a sopportare dando il servizio al cittadino, di modo che invece che essere pagato a 100 sarà pagato a 80, a 70, e questo potrebbe conciliare quella che è la spesa. E invece neanche questo accade. Neanche questo accade. In più la regione Lazio, l'unica in tutta Italia, nel 1997 stabilì che i soggetti che da convenzionati passavano ad accreditare, che è la nuova formula con cui la struttura viene accreditata dal Servizio Sanitario Regionale, poteva eseguire soltanto un certo numero di tipologia di prestazioni, che sono delle prestazioni estremamente ridotte in confronto a quello che può dare il pubblico. Vuole avere un esempio o due esempi? Sì. La mammografia, la cittadina del Lazio, al contrario di tutte le altre regioni, non la può avere in convenzione presso i privati, perché la Regione Lazio ha stabilito che se la può fare la deve fare soltanto nell'area pubblica. Un diabetico, il quale deve fare l'emoglobina triglicerilata, se le vuol fare da noi, accreditati convenzionati, deve purtroppo pagare, perché la Regione Lazio ti vieta di dare questa prestazione. E quindi praticamente noi altri già siamo handicappati. In più ci mette nel budget sclerotico. Lei capisce bene che è una situazione insostenibile. Parliamo ora di una sanità che non è sanità e che non è malata, ma provoca semplicemente orrore. In Nigeria una clinica per la maternità era usata come copertura. In realtà giovani donne venivano tenute prigioniere e violentate affinché partorissero. I bambini venivano venduti per cifre fra i 2.000 e i 3.500 dollari. Un fenomeno, quello del traffico di minori in Nigeria e in tutta l'Africa in generale, che UNICEF denuncia e combatte da anni, come conferma Donata Lodi, direttore dei programmi sul campo, al microfono di Maria Luisa Pezzali. Purtroppo l'Africa occidentale è uno degli snodi mondiali del traffico di minori, un traffico che emerge soltanto quando ci sono episodi come questo, per cui l'attenzione dei media internazionali viene richiamata. C'è un traffico di neonati, prevalentemente per l'adozione illegale, perché in Nigeria, come in altri paesi africani, essere sterile è una vergogna sociale, e quindi molto spesso avviene che le donne sterili ricorrano alla compravendita di bambini, cosa del resto non ignota anche nella realtà dell'Europa mediterranea, ma che in quei paesi una situazione di illegalità diffusa assume ovviamente dimensioni assolutamente spaventose. Ma c'è anche un traffico di ragazzini leggermente più grandi di età, bambini fra i 5 e i 15 anni, che vengono avviati al lavoro in forme di quasi schiavitù nei paesi vicini. C'è un traffico enorme, per esempio, di bambini dal Benin verso la Nigeria stessa e verso il Gabon tramite la Nigeria, di bambini che vengono destinati o al lavoro agricolo nelle piantagioni in condizioni più assolutamente di sfruttamento totale, o molto spesso anche al lavoro domestico. Basta andare in Gabon o nelle regioni ricche della Nigeria o nello stesso Camerun per trovare questi bambini, in larga parte provenienti dal Benin o dal Ghana o da altri paesi più poveri dell'area, che vengono adibiti a piccoli schiavi domestici, di fatto in cambio soltanto del sostentamento. Ora voltiamo decisamente pagina, il momento della nostra pausa pranzo con il gastronauta Davide Paolini. Oggi ci porta a Firenze, nel mercato di San Lorenzo. C'è un qualcosa veramente di originale che non si trova negli altri mercati, soprattutto all'estero, ed è un, diciamo, un locale che si chiama Nerbone. Bene, da Nerbone si può mangiare innanzitutto un prodotto che si trova solo a Firenze, che è il lampredotto. Il lampredotto non è una trippa come di solito la gente ritiene, ma è una parte dello stomaco, una parte davvero particolare dello stomaco, molto, diciamo, sapida, molto gustosa in bocca, che viene servita di solito con un pane rotondo, e Nerbone ogni volta chiede asciutto o bagnato. Cosa significa bagnato? Bagnato significa intingere il pane in questa, diciamo, brodo dove viene preparato il lampredotto. Bene, da Nerbone non si mangia solamente questo panino che è un po' il simbolo di Firenze, di questo mercato, un po' della città con i suoi carretti, ma si mangia anche un'ottima pasta di fagioli o in altri momenti pasta di ceci. Quindi vi ricordo Nerbone, mercato di San Lorenzo, Firenze. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Due suore italiane rapite in Kenya appartengono ad un centro missionario di Cuneo, sono state sequestrate in casa loro da un gruppo di somali. È in corso lo sciopero del trasporto pubblico locale, lo avete sentito anche in Che strada fa, fermi i treni fino alle 21. All'Italia il fronte del no all'accordo con CAI si spacca sul blocco immediato del trasporto aereo, ma a Fiumicino si registrano disagi. Nel pomeriggio tutte le sigle di Alitalia convocate dal commissario Fantozzi. In netto calo la produzione industriale, a settembre meno 2,1% su agosto, il calo più forte da 10 anni. Le borse festeggiano il piano anticrisi cinese, molto positive. È morta a 76 anni Miriam Makeba, aveva appena finito di cantare ad un concerto in onore di Roberto Saviano a Castelvolturno. Il primo giorno di Barack Obama alla Casa Bianca, ma ancora da ospite, perché l'ingresso da presidente degli Stati Uniti lo farà il 20 gennaio. Stasera invece l'incontro con George Bush che ha invitato appunto alla White House il presidente eletto, Sergio Nava. Sì, buongiorno, l'incontro si terrà intorno alle 20 ore italiane, alle 14 di Washington. Sarà un incontro nelle parole appunto di Barack Obama, si terrà con spirito bipartisan. Lo stesso presidente George Bush aveva accolto con grande affetto, potremmo dire, l'elezione di Barack Obama. Tutti ancora ricordiamo il suo discorso di mercoledì. Non c'è alcuna agenda ufficiale ovviamente sui temi dell'incontro, si tratterà di un primo scambio di vedute, si parlerà soprattutto di economia, che è anche il tema principe affrontato da Barack Obama nella sua conferenza stampa, ma si parlerà anche delle due guerre in corso da parte degli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan. Dietro le quinte però già si affinano, potremmo dire, i coltelli, perché il capo del comitato di transizione, del gabinetto di transizione di Barack Obama, Podestà, ha detto chiaro e tondo, ha fatto capire chiaro e tondo che la nuova amministrazione sta già vagliando possibili interventi a colpi di decreto, soprattutto nei settori delle cellule staminali, cui fondi la ricerca sulle cellule staminali ha visto tagliare i fondi da parte dell'amministrazione Bush. Obama vorrebbe ripristinarli, ma anche in tema economico ci sarà sicuramente divergenza di vedute. Obama vorrebbe un nuovo pacchetto di stimolo all'economia suddiviso in due tranche, la Casa Bianca non è d'accordo e c'è anche divergenza di vedute su questo. L'amministrazione Obama potrebbe già operare i primi interventi pure sulle trivelazioni. Bush ha ordinato nuove trivelazioni. Sergio, ti interrompiamo qua sul pacchetto economico e ti ringraziamo per questi aggiornamenti, perché andiamo a toccare questo tema anche con la nostra rassegna stampa internazionale. Giulia Crivelli, oggi il Financial Times parla di una nuova mannaia di Wall Street, di cosa si tratta? Sì, secondo Financial Times potrebbero esserci altri 70.000 posti di lavoro che presto andranno dissolti nel nulla, andranno perduti, naturalmente soprattutto negli Stati Uniti, a New York, quindi dove appunto ha sede Wall Street, la borsa americana, e questi si aggiungono ai 150.000 che già sono stati persi in tutto il mondo finanziario, che poi tra l'altro è un mondo globale, quindi un mondo globalizzato, diciamo, quindi magari si tratta appunto di qualcuno che lavora a Wall Street per un'azienda asiatica o viceversa, perché dall'inizio della crisi dei mercati internazionali, diciamo l'acuirsi della crisi da un paio di mesi a questa parte, tutte le banche, tutte le agenzie, di rating e moltissime aziende finanziarie hanno dovuto tagliare i posti di lavoro per i motivi che ben conosciamo. Grazie Giulia, oggi purtroppo siamo insomma un po' corti, i tempi stringono, è il momento del nostro Dizio Radio. Chi non ha sentito parlare di crisi internazionale finanziaria, purtroppo, no? Da un po' di tempo a questa parte, dovrebbe essere uno che si è proprio isolato da tutti i media, dall'informazione, anche dalle discussioni o dal chiacchiericcio che si fa sui tram o in ufficio. Quindi sappiamo di essere in piena crisi a livello internazionale. Però c'è un termine che ricorre molto spesso ultimamente, che fa molta paura, che è recessione. Che cosa significa recessione? La crisi è venuta più o meno dai mutui subprime, come si dice americani, cioè le concessioni di mutui troppo facilmente, poi dalla crisi delle banche d'affari. E poi adesso si parla di recessione, così intuitivamente sembra qualcosa che ci porti indietro, recedere, no? Però chiediamo a Riccardo Sorrentino del Sole 24 Ore, Riccardo, esattamente che cosa significa? La recessione è semplicemente la riduzione dell'attività economica in maniera generalizzata, cioè non in un singolo settore dell'economia, ma a livello macroeconomico, nell'economia del suo complesso. In situazioni normali, in situazioni auspicabili, l'economia cresce a un ritmo più o meno veloce, in dipendenza da tutta una serie di fattori diversi, anche dalla natura dell'economia. In situazioni di crisi invece si contrae, si riduce. Sicuramente è una situazione che fa paura, l'hai detto tu, hai detto molto bene, ricordiamo che negli Stati Uniti si evita anche, tra gli economisti naturalmente, di nominarle, si dice la parola con la R. Fattore R, sì. Fattore R è la parola con la R, per evitare di dirla, perché evidentemente la contrazione dell'attività economica porta è un bel disastro, porta soprattutto ad una riduzione dell'occupazione, con tutti i piccoli drammi umani che questo crea, oltre a una riduzione complessiva di tutto. Ma la differenza allora, Riccardo Sorrentino, tra recessione e crisi economica? Recessione forse è un passo ulteriore nel senso negativo, immagino, rispetto alla crisi economica, o semplicemente qualcosa di differente? No, semplicemente la recessione forse è una definizione più tecnica. Ah. La situazione di crisi può, tutto e niente, esatto, può voler dire tutto e niente, può manifestarsi in molti modi diversi, può manifestarsi per esempio quasi soltanto alle volte sui mercati finanziari, senza impattare sull'economia reale. Ah. La recessione invece è qualcosa che colpisce tutta l'economia reale. Il problema è capire quando c'è, quando inizia. C'è un metodo molto semplice, ma molto pratico, che in realtà non coincide con la recessione in tutti i suoi aspetti. Siccome c'è un indice macroeconomico, che è il prodotto interno lordo, che misura l'attività economica, la riduzione del PIL è la riduzione dell'attività economica. Quindi se è abbastanza prolungato, economisti parlano di 2 trimestri, questa riduzione è una recessione che viene definita come recessione tecnica. In realtà la recessione vera e propria comincia prima che si manifesti questa recessione tecnica, questa riduzione del PIL, e in genere finisce dopo. Quindi anche se ci fa molto paura, noi ne abbiamo parlato diffusamente con Riccardo Sorrentino del Sole, che ringrazio. Roberta Giordano vi dà appuntamento con Dizio Radio al prossimo lunedì. 2 suore italiane sono state rapite al confine tra Kenya e Somalia, la conferma è arrivata dalla Farnesina. Trasporti difficili nel giorno dello stop di treni e mezzi pubblici, il fronte del no all'accordo per Alitalia crea disagi a Fiumicino. Ancora giù la produzione industriale, il calo è il peggiore da 10 anni a questa parte. Il piano cinese spinge le borse contro la crisi, Pechino investirà il 16% del PIL e tutte le piazze finanziarie sono in rialzo. Aspettando Barack, primo incontro questa sera tra Obama e Bush, il neoeletto presidente fa sapere 200 leggi da cancellare. Morte in concerto, Miriam Makeba se ne va dopo l'esibizione per Saviano a Castelvolturno, Mandela dice è quello che avrebbe voluto. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchesi, con in regia Peter Bescapè. Prossimo appuntamento col GR alle 15, GR Extra Large torna domani alle 13. GR GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.